sembra di sentire ancora il tuo cazzaggio mese. C'è stato pure il tiro, la sua arma è palese. Chissà che ho sboccato nella pattugliera. Adesso provo alzando in pamicina tutto intorno. Oggi pomeriggio c'è la manifestazione. Recupero i vestiti, calze di maledizione. Lasci la lavare dentro il mondo. Bene, sono in testa del corteo. Sento fibrillante, allora sta che ancora avanti. E poi si arriverà, mi vedo tutti quanti. Poi mi rendo con gli esci, è stato un malvamento. Quando mi risveglio, sto riato sul filo. C'è che tu cantore, che stare già servato. Ti grattu un po' la testa e tutto ciò.